riguarda tutto l'aspetto processuale, noi ci troviamo ad avere due processi molto importanti, uno terminato nel 95 e un altro terminato nel 2007, che hanno determinato che gli esecutori materiali, cioè Fioravanti, Lamambro e Ciavardini, e i depistatori, il gran maestro della loggia massonica P2 Licio Gelli, il faccendiere Pazienza, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, che erano ai vertici del SISMI. Teniamo presente anche che il generale Santovito, che era il direttore del SISMI, non fu condannato perché morì durante il processo. Mancano i mandanti e gli ispiratori politici di questa strage. E questa è una ricerca che io credo non debba mai terminare. Come mai questa è l'unica strage in cui, nonostante ci siano già stati processi conclusi, i depistaggi, le false piste, le indicazioni diverse, cioè il desiderio e la volontà di andare a demolire quello che è stato che sono state le risultanze processuali, non smettono mai. E credo che questo debba fare una riflessione. Mokbel, lei ci crede all'ipotesi Mokbel del suo ruolo nell'uscita dal carcere di Fioravanti e Mambro? È comunque un'intercettazione di un certo tipo. Qui si è visto che molte intercettazioni sono intercettazioni che portano a degli sviluppi di indagini insperate, detto tra noi, no? E non a caso poi volevano fare una legge per bloccare poi le intercettazioni. E questo è un primo dato. Il secondo dato è che questi qui, Mokbel, che si voleva far passare, perché una delle dichiarazioni di Fioravanti nel momento in cui hanno tirato fuori Mokbel, ha detto subito: ma questo è un ladruncolo, è un poveretto, porca miseria, gli hanno sequestrato miliardi su miliardi di diamanti, gioielli, cose varie, addirittura tutto in combutta con tutta l'operazione con la Finmeccanica, eccetera. Cioè qui stanno girando fiumi di denaro, perciò la potenza di queste persone è grandissima, e Mokbel sembra che sia stato il cervello, almeno da quello che riportano i giornali, della situazione. Quindi ipotesi Mokbel, lei sembra crederci? Beh, io vorrei svilupparla. Quindi nuove indagini, certo, ad hoc su questo. Voglio dire, sono tre anni che fanno un gran casotto su questa situazione dei palestinesi, che a mio parere non porterà da nessuna parte. Beh, impiega qualche ora anche su Mokbel, che forse non è un guaio.